Storiacce di Raffaella Calandra. Andate indietro, per favore, non state qua! Bisogna andare indietro! Io non salgo più sui treni. Dal 2009 non sono più salito sui treni, come non posso stare al sole nelle ore più calde d'inverno, e d'estate invece mi devono chiudere in casa dalle 9 la mattina o dalle 10, oppure andare a giro completamente vestito e poi tornare in casa perché il sole e il caldo mi danno noia, così come non salgo sui treni. Non sale sui treni per paura? Non salgo sui treni per, chiaramente, da quella notte, per una fobia, una paura che è intrinseca da quella notte. La notte è quella del 29 giugno 2009, quando una nuvola di fiamme investì la sua e tutte le altre case affacciate sulla ferrovia di Viareggio. Via Ponchielli divenne un unico tizzone ardente che bruciò, in alcuni casi dopo lunghi giorni di agonia, le vite di 32 persone. Due erano i bimbi e la moglie di Marco Piagentini. Quella senza dubbio è stata una delle peggiori sciagure ferroviarie italiane, che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del trasporto delle merci pericolose e cambiato anche il modo stesso di indagare su disastri di questo tipo. E allora, dopo la sentenza di primo grado per la strage di Viareggio, Storiacce riparte da qui. Colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati. Condanna. Cogherai grai nel Rinoschi Peter alla pena di anni 9 mesi 6 di reclusione. Masbar Johannes, Maier Roman e Conneche Uwe alla pena di anni 9 di reclusione. Schroeder Andreas, Freddy Lennon e Crive Lupe. 23 condanne, 10 assoluzioni, pene da 6 a 9 anni per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo, incendio e lesioni. Davanti i volti delle vittime sorridono sulle foto delle magliette lasciate dai familiari sulle 32 sedie vuote. Dietro, un'aula gremita ascolta il presidente della Corte di Lucca leggere il dispositivo della sentenza, che chiude la prima tappa di una lunga e complessa vicenda processuale, 7 anni e 7 mesi dopo quella notte, quando un treno merci con 14 cisterne, che viaggiava a 90 km all'ora, deragliò nella stazione di Viareggio. Il GPL fuoriuscì da una delle cisterne ed entrò, prima con l'odore pungente, poi con fuoco, fiamme e ripetute esplosioni, all'interno delle case, al di là del muro, come quella di Marco Piagentini. Quelle magliette sono state in aula sempre con noi, volute dall'associazione, volute da noi familiari, perché abbiamo voluto dare un segnale, come dire: guardate che state parlando di chi non c'è più. E quell'incidente ha portato via 32 vite, prima di tutto. 32 persone sono scomparse, sono bruciate vive, anzi, sono bruciate vive nelle proprie case. Via Ponchielli che cosa rappresenta per lei oggi? Via Ponchielli è la strada dove purtroppo la mia vita è cambiata completamente. Il 29 giugno 2009 hanno distrutto un'intera famiglia e adesso quella è una strada di un ricordo. Ci vuole ricordare quella notte del 29 giugno del 2009? Quella notte io, come tante altre persone, eravamo nelle proprie case, perché ricordiamo che quel gas, quella cisterna ha portato la morte nelle abitazioni. Io ho cercato di portare via fuori la mia famiglia quando ho sentito l'odore del gas. Quando poi mi sono accorto che mancava all'appello il mio figlio più grande, cioè Leonardo, ho lasciato Luca in macchina, Lorenzo era in braccio di sua mamma, sono tornato indietro e poi è esploso il finimondo. Un muro alto quanto la mia casa mi ha sovrastato e poi mi sono risvegliato sotto le macerie. Quando dopo un'ora e un quarto i vigili del fuoco mi hanno estratto, sono svenuto e mi sono risvegliato dopo un mese e mezzo all'ospedale di Padova, dove sono rimasto per circa 6 mesi. Voi avete detto: il nostro dolore non può andare in prescrizione, quindi anche per questo chiedete che non intervenga la prescrizione sui reati? Esatto, noi non accettiamo che vada in prescrizione l'incendio colposo e le lesioni colpose, quindi stiamo chiedendo appunto alla politica che chiaramente deve intervenire sulla prescrizione. Ad oggi non hanno fatto ancora nulla per modificare questa legge. Intorno alla riforma della prescrizione si consuma da sempre un'accesa battaglia politica. Ora è ferma in Senato, ma anche se ci fosse un'accelerazione, comunque non potrebbe valere per questo processo, perché non sarebbe retroattiva. A rischio sono i reati minori, incendio e lesioni, mentre disastro colposo e omicidio colposo plurimo decadranno nel 2019 e nel 2024. Per questo non si preoccupa più di tanto il procuratore di Lucca, Pietro Sucan, convinto soprattutto che questa sia una sentenza importante perché guarda al futuro, dice, cioè pone prescrizioni sul tema della sicurezza del trasporto delle merci. Evidentemente quelle che c'erano non bastavano? Noi siamo contenti, siamo soddisfatti perché è stato riconosciuto fondamentalmente nelle linee generali l'impianto accusatorio, quindi non è fatalità, non è caso fortuito, ci sono delle precise responsabilità per colpa della verificazione di questo evento così tragico, quindi credo che questo sia il senso più vero della sentenza. Poi le singole posizioni dobbiamo attendere ovviamente le motivazioni, poi valuteremo anche noi eventuali ulteriori passi. Lei ha già detto è una sentenza che guarda al futuro, perché? Guarda al futuro perché ha detto chiaramente che così come viaggiavano questi carri non possono viaggiare. Una chiara indicazione per il futuro che queste cose non devono succedere più, nel senso che le misure di sicurezza, le prescrizioni che ci sono devono essere rigorosamente, l'accento su rigorosamente, rispettate per evitare ulteriori vittime. Oltretutto se era evitabile, ci dice che era evitabile. Quindi questa sentenza dice che quelle 32 morti erano evitabili e che furono colpa di una mancata sicurezza. Non avrebbe potuto condannare, affermare la responsabilità penale. Possiamo sicuramente capire, leggendo diciamo dalle condanne, è stata condannata la mancata sicurezza e per questo c'è la condanna anche dei vertici di Rete Ferroviaria. Direi di sì, la sentenza dice che responsabilità penale ci fu, non marginale ma copiosa, forte, e questo ci incoraggia nell'andare avanti. Esiste a questo punto un problema di rischio prescrizione per qualche reato? I reati più gravi non dovrebbero andare in prescrizione, vanno in prescrizione negli anni 20, quindi non più in là. C'è un valore rilevante in termini di chiara indicazione su come certe situazioni non devono avvenire, ecco. Quindi non devono verificarsi più. Dobbiamo evitare la ripetizione di una tragedia di questo genere, questo è il minimo, insomma. Di sicuro questa sentenza ha avuto un approccio nuovo e per la prima volta in un disastro di massa è stato condannato non solo chi ebbe materialmente a che fare con la cisterna, come l'officina tedesca Jugendhal di Hannover, ma anche i vertici delle società che avrebbero potuto intervenire sulla sicurezza e non lo fecero, l'austro-tedesca GATS e Rete Ferroviaria Italiana. Una strage, quella di Viareggio, che ha portato anche a dei cambiamenti nel modo di investigare su incidenti di questo tipo. Così è stato istituito il nucleo operativo incidenti ferroviari della Polfer, intervenuto anche nello scontro di Andria. Gran parte del processo si è sviluppato sulla discussione su dove abbia urtato la cisterna deragliata, ma anche su direttive europee, ad esempio sui sistemi ferroviari, sulla proprietà di binari e treni e su responsabilità ed oneri. E questo potrebbe essere stato alla base della assoluzione per Mauro Moretti, quale ex amministratore delegato di FS, condannato invece per il passato ruolo svolto in Rete Ferroviaria Italiana. E da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce sul tema della sicurezza. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Storiacce. La necessità che un'indagine su un disastro ferroviario di questa entità richieda un approccio di sistema. Ricordo le parole che ha pronunciato ad esempio il procuratore di Trani in occasione dell'incidente di Andria, dicendo che è riduttivo parlare di errore umano. Questa forse è la lezione più importante che ho imparato in queste due occasioni. L'errore umano normalmente esiste, è purtroppo grave e in molti casi anche determinante, ma non ci si può fermare ad analizzare soltanto quell'aspetto. Sui binari di Viareggio, Lorenza Laspina ha cominciato a lavorare da subito e sul campo, di fatto. Questo vicequestore aggiunto è diventato il dirigente di quello che poi, nel novembre 2011, sarebbe diventato il nucleo operativo incidenti ferroviari, istituito dopo quella strage per intervenire in disastri del genere. E infatti ora è al lavoro sulle indagini sulla collisione di Andria in Puglia. Un approccio di sistema, dunque, questa è la filosofia di lavoro di questa squadra di poliziotti che ha presentato anche a Bruxelles una proposta per uniformare le normative in materia di circolazione ferroviaria. L'attività del nucleo dipende molto dalle caratteristiche del singolo incidente. Oggi è stato attivato un'unica volta a seguito del disastro ferroviario verificatosi il 12 luglio scorso nella tratta ferroviaria tra Andria e Corato, e se dovessimo ad esempio fare un paragone tra i due incidenti di Viareggio e di Andria, troveremmo delle enormi differenze sotto il profilo della ricostruzione e dell'accertamento, che inevitabilmente condizionano anche l'attività del nucleo. La necessità di istituire un nucleo specializzato in questo tipo di disastri è dovuta anche alla complessità delle indagini? Senz'altro sì, perché il settore ferroviario è un settore molto particolare, che può presentare delle grandi difficoltà sia sotto il profilo dell'accertamento strettamente tecnico e quindi del sopralluogo, sia sotto il profilo della ricostruzione più strettamente normativa, perché tenga conto che il settore ferroviario è un settore in cui è forte l'influenza delle fonti anche di derivazione comunitaria. Questi due aspetti, che sono sicuramente entrambi stati molto presenti in occasione dell'indagine sul disastro di Viareggio, sono elementi che hanno suggerito l'opportunità di procedere alla individuazione di un nucleo di persone che potesse fornire un supporto anche agli organi territoriali precedenti. A proposito di Viareggio, quali possono essere state le maggiori difficoltà? Viareggio è stato effettivamente un caso molto particolare. Innanzitutto difficoltà di accertamento della dinamica incidentale. Erano coinvolti soggetti anche esteri, per cui tutta un'attività volta all'acquisizione di elementi probatori provenienti da altri paesi europei. E sono tutte cose che inevitabilmente hanno allungato i tempi delle indagini preliminari. Siete dovuti partire dal capire dove si è andata a sbattere quella cisterna, che cosa abbia provocato la fuoriuscita del GPL, perché anche questo mi sembra di capire che è un passaggio importante. È stato uno degli elementi più controversi, senz'altro, in occasione della ricostruzione sia investigativa che poi processuale. E quindi poi dopo ricostruire a ritroso. Il problema è stato innanzitutto capire quali fossero le responsabilità legate alla frattura della stile, che è il primo elemento che ha determinato il disastro ferroviario di Viareggio, e quindi responsabilità connesse alla scorretta, carente attività manutentiva su quella stile. Successivamente ulteriori accertamenti fatti appunto in relazione all'elemento che ne aveva determinato la foratura, cosa che richiede inevitabilmente un approccio, come le dicevo, di sistema, perché si tratta di analizzare due grandi settori normativi, che sono quello che regola la sicurezza dell'esercizio e quello che regola la sicurezza dei lavoratori. Implicano quindi un approfondimento che non può fermarsi all'accertamento della condotta di chi ha errato, ha svolto scorrettamente l'attività di verifica sulla stile, ma anche chi ha consentito che un determinato sistema venisse mantenuto nella condizione in cui è stato accertato che fosse. L'approccio che avete avuto a Viareggio è lo stesso che state avendo nelle indagini di Andria? Direi che è molto simile in termini investigativi, sì. Se in qualche modo appunto un aspetto positivo si può cogliere da una strage come quella di Viareggio, è forse proprio in quella che adesso si ha più una formazione per capire che cosa sia successo in disastri del genere. Io ritengo anche che il nostro servizio di polizia ferroviaria stia compiendo uno sforzo veramente molto significativo sotto il profilo della formazione del suo personale. Il frutto peraltro di questo lavoro è in qualche modo stato recepito anche a livello europeo, perché l'Italia, il servizio di polizia ferroviaria, è parte di una più ampia rete che si chiama RailPol, e quindi interviene anche a livello europeo in una serie di gruppi di lavoro, tra cui uno è segnatamente dedicato proprio agli incidenti ferroviari, e in quell'ambito è stato fatto uno studio, una proposta volta proprio ad esempio ad avere uno standard minimo comune per l'esecuzione delle attività manutentive in ambito europeo. paese che vai, leggi che trovi, ma a volte quando si parla di circolazione di merci pericolose tutto cambia anche da contratto a contratto o da sentenza a sentenza, ricorda Jacopo Giliberto, collega del Sole 24 Ore con cui ci ritrovammo davanti alle case bruciate di Viareggio. In alcuni casi la responsabilità è solo del trasportatore, in alcuni casi invece è corresponsabile, e qui per esempio è stato esaminato nella legge sui reati ambientali, responsabilità condivisa del padrone del prodotto che hai trasportato. Quando naufraga la petroliera, chi è responsabile? E dipende da caso a caso, dai contratti singoli, dai paesi singoli e dalle singole sentenze dei tribunali. Il tribunale di Lucca ha dato l'altro giorno su Viareggio una risposta. Il responsabile di questa tragedia è sostanzialmente, in primo luogo, il padrone del carro e il verificatore in secondo ordine della qualità della sicurezza, la Jugendtal, un'altra società tedesca, ai quali sono andati 9 e 8 anni, e il proprietario della rete ferroviaria italiana sono in terzo ordine. Il proprietario del carico, Cosentino, l'imprenditore campano Cosentino, padrone di quel GPL che veniva trasportato, invece in questo caso non è stato ritenuto responsabile del danno. Un altro tema riguarda anche la conoscenza di che cosa i treni merci stiano trasportando. Nello specifico a Viareggio, ed è un punto che ancora una volta i familiari delle vittime soprattutto sottolineano, i vigili del fuoco quella sera non sapevano cosa avevano di fronte, perché esiste un tipo di un obbligo di comunicazione soltanto per il materiale radioattivo. È così? La normativa, in questo caso normativa europea, è in evoluzione. Gli scali ferroviari e i mezzi di trasporti erano sganciati dagli obblighi di comunicazione della direttiva Seveso, direttiva europea introdotta dopo il terrificante incidente di Seveso del 76. E si è scoperto che spesso gli scali ferroviari sono stati usati come depositi non dichiarati, non trasparenti, di materiali pericolosi. La cisterna della strage, ormai arrugginita, è ancora lì, tra la stazione e via Ponchielli, ancora sotto sequestro. E sembra quasi un reperto di archeologia industriale, ma per chi sa, quella cisterna è invece la memoria del dolore e delle fiamme e della distruzione, mentre sulla via sono stati piantati 32 alberi, uno per ogni vittima. Ed è per loro che la battaglia dei familiari delle vittime non può terminare, ripete Marco Piagentini. La sentenza dice appunto che le società e gli amministratori delegati responsabili potevano evitare Viareggio, non l'hanno fatto, per questi sono stati condannati. Se noi guardiamo le dichiarazioni che ha fatto il nuovo amministratore delegato di FS, ha detto che da oggi dovranno adeguare i sistemi di sicurezza a quello del trasporto passeggeri, deve essere uguagliato il trasporto di merci pericolose. Questo vuol dire che fino adesso non era allo stesso livello. Le ferrovie sottolineano molto gli investimenti fatti sulla sicurezza. Ma gli investimenti che hanno fatto è sul trasporto passeggeri. Parlano sempre del sensore marcia treno perché è stato messo su tutta la linea passeggeri, ma non per quanto riguarda il trasporto merci pericoloso. Nel nostro documento c'è scritto proprio che ogni comune, ogni sindaco come capo della protezione civile può richiedere e deve richiedere il documento della valutazione di rischio per la tratta di sua competenza. Adesso vedremo cosa risponde RFI. Chi dovrebbe proteggere le persone non sa che in ferrovia a quell'ora sta passando un treno con quel contenuto pericoloso. Ecco, a me mi sembra veramente incredibile. Dobbiamo trattare le merci come fossero passeggeri. Sono parole di Marco Gosso, AD di Mercitalia Logistica, la subholding di FS per il trasporto merci, unica attività del gruppo in perdita. Settore che si vuole risanare e rilanciare come previsto dal piano industriale 2017-2026, scrive il Sole 24 Ore. Ma sul fronte della sicurezza dal 2002 al 2014 il gruppo FS ha investito quasi 20 miliardi, 18, elenca il capo ufficio stampa Stefano Biserni. Per quanto riguarda la sicurezza del sistema ferroviario, dal 2002 al 2014 il gruppo ha investito 19,5 miliardi di euro per garantire gli standard massimi di sicurezza. Il gruppo FS Italiane prende atto della soluzione della società capogruppo FS Italiane e della società FS Logistica. pur nella convinzione dell'innocenza delle altre società e delle persone fisiche condannate, si riserva qualsiasi valutazione nel momento in cui saranno pubblicate le motivazioni della sentenza. Il gruppo FS Italiane ribadisce il cordoglio per le vittime, la vicinanza ai familiari e a quanti a vario titolo sono stati interessati da questo tragico incidente. Cifre che comprendono sia il trasporto passeggeri che quello merci? Complessive, le cifre sono per tutto il mondo ferroviario, sia per quanto riguarda l'infrastruttura, quindi tutti i sistemi a terra, sia per quanto riguarda il trasporto, quindi tutti i sistemi che sono a bordo dei treni viaggiatori, a bordo dei treni merci, che interagiscono con i sistemi a terra. Storie di giustizia, dunque, come quella reclamata a Viareggio, e storie di vendette personali, invece, come quella messa in atto a Vasto. Storie che si ripetono in ogni tempo, come ci racconta allora, come sempre, a questo punto, Giorgio Gioranò, professore all'Università di Trento e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Vogliamo giustizia e non vendetta. È stato questo per anni il motto dei parenti delle vittime di Viareggio. Uno di loro nei giorni scorsi ha detto con ammirabile serenità che quale che sia la sentenza, l'applicazione della legge è un conforto non solo per chi ha perso una persona cara, ma anche per tutta la società. Negli stessi giorni però a Vasto un uomo ha deciso che la vendetta era più giusta della giustizia e ha ammazzato chi gli aveva ucciso la moglie in un incidente stradale. Sono casi diversissimi, sebbene ugualmente tragici, di cui bisogna parlare con il rispetto dovuto ai grandi dolori. Eppure, come non pensare a una storia mitica come quella dell'Orestea di Eschilo, dove il problema è appunto il rapporto tra la vendetta privata e l'amministrazione pubblica e imparziale della giustizia, dove si tratta di capire se un tribunale può veramente placare risentimenti e ricomporre conflitti che sembrano insuperabili. Un'interpretazione tradizionale della trilogia tragica di Eschilo è che essa racconti l'evoluzione da una fase primitiva della civiltà, dominata appunto dalla vendetta di sangue, a una fase progredita in cui la città democratica rimuove definitivamente questo uso arcaico della vendetta. Le cronache di questi giorni dimostrano che non è così, che il mito e la tragedia non sono allegorie del passato, ma domande pressanti sulle passioni e sulle contraddizioni del presente. Il dilemma tragico tra vendetta e giustizia è ancora tra noi, nel cuore e nelle vite degli uomini di oggi. Se avete anche voi storie, commenti o testimonianze da voler condividere, scriveteci a storiacce@radio24.it. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e su Twitter, invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.